Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Perché è una cosa bella e sono molte persone. Io penso che il Signore. Sicuri di così non ci siamo mai sentite. Perché secondo me se il Signore non vuole certe cose non accadono e io sono sicura, anche se mi hanno detto che facevo una pazzia sia mio marito che le mie figlie, io ho detto io vado, io sono sicura che non succederà niente. Ascolti, lei ha notato quando ha aperto la porta santa il sole, è arrivato il sole sul sagrato, sì. E quello non è un miracolo del Signore? Miracolo divino. Io da dove vengo? Vabbè, sono venuta a trovare mia figlia da Roma, quindi. Perfetto. Anche se non sono. Questa è una delle vox populi riprese ieri in giro per Roma, soprattutto in piazza San Pietro, per la solenne apertura della Porta Santa e inizio del Giubileo della Misericordia. Una piccola nota sull'atto di fede di quella signora: se il Signore non ha voluto che nulla accadesse a Roma, allora cosa, ha voluto che qualcosa accadesse a Parigi tempo prima? Il miracolo della Porta Santa che si apre ed entra il raggio di luce, leggiamo le cronache sui giornali, hanno abolito il piccone, hanno abolito il martelletto, anche perché qualche papa precedente ha rischiato di essere travolto dai calcinacci. Il papa ha spinto con fatica il portone centenario, pesantissimo, e qualcuno dovette tirarlo da dentro perché non ce la faceva. Detto questo, oggi, al di là del giubilo che esprimono naturalmente quelli che danno un significato profondo e spirituale a questo evento, la cronaca più concreta e più realistica è quella che in realtà la gente non c'è andata in piazza, la gente non si è mossa, i pellegrini sono rimasti a casa. Vagamente ci sono varie interviste ad albergatori, ai pii alberghi, che avevano anche aumentato e raddoppiato i prezzi, ma si sono trovati le camere vuote. Io che abito proprio di fronte al luogo in cui doveva affluire la folla, e ho visto negli ultimi anni affluire in varie epoche le folle, devo dire che ho visto molto più fermento e molta più gente le prime settimane di pontificato di Papa Francesco, i mercoledì, quando improvvisamente si riempiva la metropolitana di Ottaviano, rispetto a quello che ho visto ieri. Sì, la città era blindata. C'erano soldati, camionette, militari, punti di perquisizione ovunque, ma la gente non sembrava poi così invogliata ad andare ad assistere a quell'evento. Ma anche l'evento pomeridiano, il momento dedicato appunto alla festa dell'Immacolata, sì, in televisione un bellissimo spettacolo, ma c'erano quattro vescovi intorno al Papa, la piazza era deserta. Direte, sono le misure di sicurezza. Sì, saranno le misure di sicurezza, ma un giubileo che si basa sul fatto che esista una forte, pregnante, potente adesione popolare, nell'ordine delle frasi di quella signora che non irrido, le quali non prendo nessuna distanza, è un atto di fede. È accaduto qualcosa perché questa fede non sia stata talmente forte, talmente potente da riuscire a fare quello che normalmente fanno i fedeli nei giubilei: riempiono le piazze e vanno tutti a partecipare all'evento. Solo in 50.000 per il giubileo, il Papa dice non abbiamo paura, questo è il titolo di un giornale, però in realtà le persone hanno avuto paura. È soltanto la paura che ha fermato le persone o sta scemando in qualche maniera quello che è il senso, l'afflato, la fede popolare verso un evento che in realtà era fuori da un calendario liturgico? È stato un evento straordinario. Il Papa una mattina ha detto facciamo un giubileo straordinario. Ecco, gli italiani o in generale i fedeli si sono sentiti pronti, hanno aderito a questo giubileo straordinario come un momento importante della loro vita spirituale, o semplicemente un evento che in realtà era antitetico a quello che era il flusso degli eventi che ci sta travolgendo? 800 24 00 24. A tra un istante, dopo il traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa, vi presenta Melog. Cronache meridiane. Il momento più bello e più toccante è quando l'apertura della porta, che sulla piazza è apparso il Papa, ha parlato di misericordia, in quell'attimo si è aperto un velo stupendo di sole. Secondo me è un segno anche dal cielo. abbiamo fatto anche un esame di coscienza, abbiamo detto noi ci ritroviamo in queste cose, se non ci ritroviamo cerchiamo di attuarle, quindi credo questo sia lo spirito per tutti, per avvicinarsi a questa giornata. Sono stato diverse volte a Roma, siccome i miei figli non c'erano mai stati. Quindi... Sentiamo il piccolo, la prima volta a Roma quindi. Sì, sì, e abbiamo visto l'Angelus l'altro ieri e ora siamo qui in fila per l'altezza della Porta Santa. Franco, buongiorno, subito un commento. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo dire che secondo me state dando delle notizie non corrette, nel senso che lei stamattina anche nella trasmessa diceva che è stato un po' disertato. È quello che dicono gran parte dei giornali, i romani soprattutto. Messaggero Giubileo senza folla, apre prima pagina, titolo a tre colonne. Sì, il giornale radio mercoledì dava un'intervista a Gabrielli, diceva che erano previste dalle 50 alle 100.000 persone. Dalle 50 alle 100.000, oddio, è una forbice un po' larga. È andata. Al vostro giornale radio dicevate che erano 70.000 presenze, quindi secondo me erano quelle previste. Io leggo il giornale radio possono dire quello che vogliono, non è che stiamo a fare i numeri, non è la manifestazione della CGIL che dobbiamo confrontare i dati della questura con i dati dei manifestanti, stiamo osservando che in realtà non c'è stato l'afflusso di folla che si immaginava, è vero che sia stata una cosa sottotono, è palese, poi se vuole, questo lo dico con dolore, non lo dico con soddisfazione, qua nessuno sta a difendere le bandiere di nessuno, facciamo i numeri delle manifestazioni sindacali, parliamo di una cosa ben più importante. È indubbio, è oggettivo che non c'è stato l'afflusso di folla che normalmente c'è un giubileo. È un momento particolare, le persone hanno avuto paura, benissimo. Di questa paura oggi vogliamo parlare, però non stiamo a trattare il giubileo come se fosse una cosa di partito. Scusate, datemi atto di questo. Lucetta Scraffia, buongiorno. Buongiorno. Lucetta Scraffia è la persona giusta nel momento giusto. Ha appena scritto un libro, editore Il Mulino, Le Porte del Cielo. È un libro che parte proprio dei giubilei, della storia dei giubilei. Quello che ho impressione questa mattina, lei mi corregga, ma con grande libertà di pensiero, come spero di esprimere anche io. La mia impressione è che in realtà questo giubileo, al di là delle persone che hanno la fortuna e il vantaggio e il privilegio di avere una profonda e incrollabile fede, non credo che sia stato, almeno all'apparenza, l'evento che normalmente rappresenta nella città di Roma, ma in generale nella cristianità, un giubileo. Questa è una mia impressione, lei può benissimo sconfessarla o portarmi argomenti per convincermi del contrario. No, io sono convinta che lei ha ragione. Sono convinta che c'è stato molto meno persone in questa piazza, anche di magari un normale Angelus in altri momenti di Francesco, e che questo è dovuto sicuramente alla paura degli attentati, che è molto più radicata di quanto non vogliono dire e che i controlli non bastano a cancellare. Però c'è anche un'altra cosa, che Francesco, Papa Francesco, non ha pensato a questo giubileo come un giubileo di grandi adunate oceaniche, non ha indetto giornate tipo della gioventù, giornate come era stato il giubileo del 2000, che era veramente un giubileo, diciamo, di folle, in cui pareva che la Chiesa cattolica si contasse, facesse una prova di forza dopo 2000 anni, non solo siamo ancora qui gli unici che dopo 2000 anni sono ancora qui, ma anche siamo tanti. Ecco, Francesco ha un altro obiettivo e questo si capisce benissimo perché non ha cominciato il giubileo a Roma, diciamo la verità, il giubileo è cominciato a Bangui quando ha aperto la porta santa di quella poverissima cattedrale che tutti abbiamo visto e ha fatto capire intanto che il teatro del giubileo è il mondo e soprattutto quel mondo povero, devastato dalle guerre, che è quello che noi tendiamo a dimenticare. Questo è uno scardinamento radicale di tutte le logiche dei giubilei, che sono delle logiche anche di raccolta di esseri umani. Coi giubilei hanno costruito chiese, hanno costruito piazze, avevano anche un necessario ritorno di folla che poi portava anche risorse. Beh, se c'erano le indulgenze, cioè quello con cui facevano hanno ristrutturato Roma e hanno fatto così bella Roma, sono stati i soldi delle indulgenze che ormai sono scomparsi assolutamente nella nostra vita. Anzi, direi che dal Novecento il giubileo è sempre meno un affare che riguarda la vita dopo la morte ed è sempre più qualche cosa che riguarda invece una conversione nella nostra vita, un cambiamento in questa vita. Ecco, come nasceva il giubileo? Vediamo di spiegare, perché di tutto si parla meno che del significato profondo e anche storico del giubileo. All'inizio il giubileo era una maniera per salvarsi l'anima se uno aveva paccato tanto. In un momento in cui c'era tantissima paura, la paura di non salvarsi l'anima, la paura dell'inferno era drammatica e fortissima, era un'angoscia devastante. niente. E quindi la risposta che è stata data a questa angoscia da Bonifacio VIII di indire il giubileo del 1300 era una risposta a una voce che correva fra il popolo, che era quella che in occasione del 300° anno, del centesimo, ci sarebbe stata un'indulgenza plenaria generale. E questo il Papa ha colto subito, perché Bonifacio VIII era molto criticato da Dante, forse non era un sant'uomo, però era un uomo che capiva bene che bisognava rafforzare il papato e Roma, e ha capito subito che il giubileo serviva a quello, a rafforzare il papato e anche il suo papato, perché il suo papato cadeva nel centesimo anno, quindi anno giubilare, e poi Roma come città che diventava la capitale, diciamo così, sacra dell'Europa, dopo che ormai i pellegrini non potevano più andare, nessuno andava più a Gerusalemme, quindi un obiettivo, certo, diciamo europeo più vicino. La sostituzione era Roma, non era così scontato che la sostituzione fosse Roma, è stato il giubileo che ha, diciamo così, rafforzato l'idea che Roma, carica di reliquie, oltre ai corpi di Pietro e Paolo, che devo dire non hanno mai molto mosso nessuno, invece c'era il telo della Veronica, quello sì, quello che lo stesso Dante nella Divina Commedia immagina il pellegrino che dice: oh, fatta la sembianza vostra, cioè l'idea di poter vedere che faccia aveva Gesù. Questo però si è persa un po' questa cosa, Lucetta Scraffia, perché in questi giorni non ho mai sentito parlare di questa cosa qua, se ne è visto scritto perché poco. Non c'è più, cioè, in realtà questo telo della Veronica, che è quello che secondo la leggenda la Veronica ha deterso il volto di Cristo che portava la croce sul Sinai con un telo, e questo telo in cambio per gratitudine è rimasta proprio stampato il volto di Cristo. L'idea era che fosse conservato a San Pietro, e in effetti c'era un antichissimo volto di Cristo bizantino, quindi cioè, in qualche modo c'era questa immagine sacra, anche se non era su un telo. Però dopo il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi nel 1527 tutte queste reliquie sono state distrutte, buttate via dai Lanzichenecchi, che erano protestanti, e quindi quando poi il Papa è tornato a Roma e si è indetto poi un giubileo nel 1550, non c'erano più. Il Papa ha detto che erano state tutte recuperate le reliquie, però sta di fatto che non furono mai più mostrate, mentre invece nei giubilei precedenti c'erano processioni intere col volto della Verona. Invece la Porta Santa chi l'aveva inventata dei papi? Tutto l'ha il rituale un altro papa di cattiva stampa, Alessandro VI Borgia, il quale anche lui cattivo, non era un bravo cristiano, cioè carico di peccati, però anche lui capace di valorizzare Roma e il papato. Aveva il senso del marketing, però. Aveva molto senso del marketing e del favore popolare. Allora, ha sentito dire che c'era una leggenda a San Pietro, che dentro San Pietro ci sarebbe stata una porticina che portava diretto in paradiso, che era stata murata ovviamente dalla gerarchia ecclesiastica. Perché nessuno doveva andare in paradiso per quella porta. Sì, perché era troppo facile. Allora, invece bisogna pagare le indulgenze e tutto. Allora lui fa inventare un rito bellissimo, tra l'altro, che un po' è stato anche seguito, seppure quello del piccone, fino a quello lì di rompere la porta, sì, picconata. È anche aprita la porta della giustizia, quello che ha detto Francesco molto semplificato ieri, e lui aveva un grande cerimoniere che era Burcardo, e ha fatto questa nuova grandissima cerimonia in cui dietro la porta c'era proprio un muretto di mattoni, di pietre. Il fatto geniale era che poi queste pietre sono diventate dei souvenir reliquia. Solo che adesso non ci sono più, perché adesso i muratori l'hanno demolita il giorno prima, sì, e il Papa prima ha trovato già la porta aperta, perché almeno ho letto nei giornali che un Papa, se mi sembra Paolo VI, col piccone poco si fa male con i calcinacci, sì, ha detto meglio. E quindi ha detto basta. Fermiamoci invece, solo un secondo, Lucetta, sento, sì, tre telefonate che sono in ascolto, poi riprendiamo con lei, abbiamo una piccola pausa. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. L'ascolto. Volevo intervenire un attimo sul calo dei fedeli in Piazza San Pietro in occasione dell'apertura del giubileo. A mio avviso il calo non è dovuto... Mi sente? Sì, la sento, esprimo. Sì, a mio avviso il calo non è dovuto alla paura degli attentati o altro, ma è dovuto a un disincanto della cristianità, dei fedeli, circa gli scandali che stanno avvenendo negli ultimi tempi nella Chiesa, sulle truffe ai fedeli, l'otto per mille. Cioè, diciamo, c'è un offuscamento del brand, non è più sufficiente un giubileo, ci sono delle persone che sono scettiche. Andrea, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Io sono estremamente contento di sentire la trasmissione perché tra l'altro prima la signora citava Dante e io sono sinceramente da una parte dispiaciuto per Papa Francesco, che sicuramente è una persona squisita, non metto in dubbio, anzi, però penso sinceramente che la gente si sia veramente rotta le scatole. La signora prima citava Dante, queste persone che affluiscono a decine di migliaia ad ascoltare le parole del Papa, che vedono nel raggio di sole che entra all'apertura di una porta, che secondo me è un fatto piuttosto comune. Sì, mi sembrano gli ignavi che nel terzo canto dell'inferno seguono lo straccio. Però scusi, sì, ma lei non è credente, Andrea? Lei non... No, no, io... Se un credente, è logico che il credente vede degli aspetti che derivano dal sovrasensibile anche in aspetti comuni. Il dono della fede è questo, che fa assistere a eventi che a noi sembrano, le persone senza fede, sembrano eventi banalmente di umani, e vedono sempre dei segni come ci fosse un'apertura verso una dimensione che è più che umana. Quindi uno deve avere rispetto a queste cose, riderci non ha senso. La signora ha visto, per lei è stato un momento che quel raggio di sole ha dato la conferma di un suo stato interiore. Guardi che il pregiudizio laicista è peggio di un integralismo folle, capito? Bisogna essere leggeri in queste cose. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo con Lucetta Scaraffi. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i tre fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. Melog. Cronache meridiane. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salve. Posso parlare? Deve. Salve. Ritengo che si debbano identificare tre diversi fattori di quello che sta succedendo al Giubileo in questo momento. Sicuramente il primo è quello della sicurezza. La gente si sente insicura a andare al Giubileo e questo è un dato di fatto. Il secondo fattore è quello del fatto che il Giubileo ormai non si fa più a Roma e basta, ma per ammissione del Papa il Giubileo è in ogni parrocchia. Quindi i fedeli vanno anche in parrocchia, se credono veramente che è un'azione spirituale efficace, la possono fare anche sotto casa. Esatto. Il terzo fattore è quello, diciamo, più drammatico, più strisciante, più invisibile, più... Che però c'è indubbiamente. E il terzo fattore è quello della, della attacco ideologico che sta subendo, strisciante, pericolosissimo, drammaticamente pericoloso, non solo la religione cattolica, ma un certo approccio alla vita. A questo attacco che ha provocato disvalori, un vuoto di valori, un nichilismo nell'approccio ai valori. I valori in termini astratto dice poco, vediamo ad essere più precisi perché attacco diciamo, ai valori. Diciamo che facciamo proprio il sarcastico o addirittura il pratico, non è più in essere cattolici. Non è più in andare in chiesa, non è più... Ma guardi, io vedo che almeno nell'apparenza invece è molto in... Non è più profondamente sentito vivere una vita spirituale? Sì, mi scusi, nell'apparenza sicuramente sì. Il problema è che questa azione strisciante, invisibile, silenziosa... È appunto invisibile e silenziosa. Sì, però ci sono anche dei lati oggettivi innegabili comunque che alla fine fanno anche riflettere le persone sull'apparato generale, che poi non dovrebbe mettere assolutamente a repentaglio quello che è un atto di fede. Gli uomini sono una cosa e la fede è un'altra, penso. Concordo con lei. Riguardo per esempio al crocifisso, vediamo quello che sta succedendo intorno al crocifisso, ai simboli. Sì, vabbè, posso dire una cosa, non c'ha nulla a che fare, mi scusi. Questo, lasciamo che se ne occupino i cronisti che si occupano delle intemperanze o degli atti eclatanti degli uomini politici che vanno in giro con il presepio, con i crocifissi o cantano Bianco Natale. Lasciamo stare, parliamo di cose serie. Lucetta Scaraffia, ricordo che è autrice delle Porte del Cielo, i Giubilei e la Misericordia, editore Teatro del Mulino, che è un libro che consiglierei a quelli che vogliono capire esattamente cosa è stato e cos'è il giubileo rispetto a poi le tante ingerenze. In questo momento ne parliamo e vedo che se ne parla solamente da un punto di vista ideologico. Sembra che bisogna sempre difendere qualcosa che a volte sembra anche difficile. Lei nel suo libro, però, Lucetta Scaffia, ci tenevo, c'è un capitolo interessante in cui la sintesi è che il giubileo in fondo non è la stessa cosa per le donne e per gli uomini. Come mai? Come il paradiso delle vergini per i musulmani, che cambia? No, non è il paradiso, è il giubileo. Il paradiso è la stessa cosa. No, gli uomini hanno 70 vergini, le donne cosa hanno? No, il cristianesimo su quello è molto paritario, sul paradiso. Invece sul giubileo no, perché le donne per secoli non hanno potuto muoversi di casa, perché la loro vita era molto breve, più breve di quella degli uomini, perché spesso morivano di parto, e la loro breve vita era tutta assorbita appunto dalle gravidanze, i parti e l'allattamento dei bambini. Quindi non potevano abbandonare questa famiglia per periodi molto lunghi. Dovevamo ricordare che partecipare a un giubileo poteva significare anche viaggi di mesi. Infatti le donne hanno cominciato a partecipare ai giubilei soprattutto quando c'è stata la rivoluzione dei mezzi di trasporto e potevano assentarsi da casa. Finché non hanno inventato il torpedone, le donne non si salvavano l'anima col giubileo? Non potevano. Questo è un dato di fatto interessante. Se la salvavano in altri modi, secondo me. Sì. E poi anche perché i mariti potevano chiedere se uno crede nel buon operare che dia salvezza. Se l'erano salvata solo nel loro quotidiano, certo. Diciamo. Questa è la cosa fondamentale, assolutamente fondamentale. Quindi stiamo tranquilli sui giubilei, che le donne se la salvavano lo stesso. Lei non avverte, Lucetta Scaffia, però io vedo dalle telefonate che sono esemplificative di uno stato d'animo generale. Come si è spostato un dibattito che sarebbe più giusto collocare su un piano politico, su un piano ideologico, anche sul piano dell'essenza profonda della fede? Difende il giubileo, chi difende i crocifissi, chi ce l'ha con i musulmani, chi in realtà... Oggi sembra che l'Italia sia divisa in due parti, capito? In cui l'appartenenza religiosa non è più qualcosa di profondo e di sentito, ma diventa come un'etichetta, come un distintivo. Anche da parte di persone, io ho visto gente andare in giro con i presepi in mano che secondo me in vita loro non lo faranno da quando hanno avuto 5 anni. Beh, quello non è colpa certo del cattolicesimo. No, non do colpa a nessuno. Ha tante colpe, ma quella no, la colpa è un po' della fanatizzazione, cioè il fatto che ci sono stati questi attentati, il fatto che la nostra identità è stata messa in pericolo. Allora, sentendo in pericolo l'identità, si è acchiappato quello che era più forte della nostra identità, che era l'essere cristiani. Anche da parte di persone che non sanno neanche bene che cosa vuol dire. Papa Francesco con questo giubileo, parlando di misericordia, è andato al cuore del messaggio cristiano. Ha detto non conta venire a Roma, pregare, magari fare anche delle offerte. L'unica cosa che conta è che voi impariate a perdonare e a farvi perdonare, accettare la misericordia di Dio nella vostra vita quotidiana. Quindi è andato al cuore del messaggio cristiano. Ecco, però si rende conto, Scaffia, che non esiste un misuratore poi delle intenzioni interiori e del beneficio spirituale di un giubileo. Esiste un misuratore di quanto hanno incassato, quanta gente è venuta, quanto è stato seguito dai media. È una sfida bella grossa, perché si risposta su un piano vero di spiritualità che il mondo moderno non ha più strumenti per misurare. Beh, no, però se scambiasse qualcosa nel mondo, forse se cambiasse qualcosa, se la misericordia che il perdono sono il contrario di quello di una società che punta tutto sul successo personale, no? Soprattutto contro tutti, sulla competizione, sull'arricchimento. Se cambiasse qualche cosa, se questa gerarchia di valori cominciasse a venire discussa e le persone scoprissero che invece uno è più felice se aiuta il vicino di casa pensionato, piuttosto che se si va al centro commerciale, questo sarebbe già qualche cosa. Grazie Lucetta Scaraffia. Maria Elena, buongiorno. Buongiorno, volevo salutare la dottoressa Scaraffia, di cui ho letto alcuni libri. Legga l'ultimo. So che il giubileo è stato fatto a Roma per la prima volta nel 1300 perché non si poteva più andare a Gerusalemme. L'abbiamo detto, sì, certo, è chiaro. Io ho sentito male, però. E quindi il pellegrinaggio sulle tombe degli apostoli e non più sul sepolcro, perché a Gerusalemme era stata riconquistata dai musulmani. E quindi vede questo un senso profondo e profetico che oggi si rifaccia il giubileo in questa chiave in questa chiave di messa, perché in parte la gente ha paura, non so, di un'invasione di mondi estranei alla propria cultura. Non ho capito, vabbè, non importa. Boris, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, sono ascoltatori. Niente, io volevo dire la mia sulla l'affluenza scarsa che c'è stato questo giubileo. Probabilmente, io penso, questo Papa in un certo senso ha messo anche un po' di paura nella gente, perché non chiede più solamente di pregare, di riempirsi la bocca con belle parole entusiasmanti, ma chiede di agire. Davanti all'agire la gente probabilmente ha risposto così, rifiutandosi o non facendosi vedere come si faceva vedere prima. Sì, diciamo che il senso della paura per eventi terroristici lo do per buono, ma io vedo che gli stadi sono ancora pieni di gente, vedo che per fare lo shopping la gente ancora va in giro, le grandi manifestazioni ludiche ancora, diciamo, assorbono persone. Questo ponte, non si trovava un treno per andare da Roma a Milano questa mattina, perché tutti hanno fatto il ponte, quindi non è che le transumanze umane si sono bloccate improvvisamente. Le transumanze umane per finalità non soltanto ludiche probabilmente stanno riflettendo sul da farsi. Cristiano, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Nicoletti. E secondo me ieri si sono scontrate la fede con la paura. E questo è successo nelle persone. E chi ha vinto fra fede e paura? Vince la paura, che, sulla quale la Chiesa stessa ha fatto leva 20 secoli. Cioè, vi spiego per portare le persone... Ma scusi, ma il Papa, se una cosa ha detto, non abbiate paura, è la frase riportata in maniera più massiccia. Perfetto, ma non abbiate paura, non si può parlare la ragione, perché la paura con la ragione non c'entra niente. Ma paura di cosa? Che ti sparino, ti saltino in aria, vengano i cattivi? Certamente, l'angoscia, la paura di quello che... la paura dell'indefinito, che è ancora più... fa ancora più paura della paura del definito. Però diciamo, non c'è stata una prova di fede così potente da sconfiggere la paura. La fede, non dico che richiede il martirio, ma richiede perlomeno un atto di presenza. L'atto di presenza non c'è stato, anche se Lucetta Scraffia ci ha detto, abbiamo capito da lei questa mattina, che questo giubileo non richiedeva grandi folle, grandi masse, perché è un giubileo, diciamo, come un albergo diffuso, era sparpagliato in tutto il mondo, ognuno può farlo anche nella sua parrocchietta. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. (800) 24 0024. Vorrei chiedere a chi mi ascolta: quanti di voi che ascoltate sono mossi ieri, sono andati alla Volta di Roma? Quanti romani sono usciti, hanno fatto una veglia notturna per essere i primi a poter entrare, o sono passati per i controlli stretti di polizia pur di partecipare al giubileo? Quanti pensano sia un momento importante nella loro vita, qualcosa di irrinunciabile? O quanti invece hanno detto che non ne possono più, in fondo negli ultimi anni ci sono state giornate speciali su vari argomenti, sono stati papi che sono alternati, un papa esce, un papa entra, poi vedere due papi davanti alla Porta Santa forse dà un po' di confusione. 800 24 0024. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io chiamavo solo per dire che a me sembra che la paura c'entri abbastanza poco, anche perché nelle ultime due settimane su questo fronte è stato fatto un bombardamento dove qualunque persona veniva intervistata faceva sfoggio di eroismo, quindi alla fine non credo che chi aveva un interesse, una fede particolare per andare a questo evento si sia fermato e sia rimasto chiuso in casa quando tutti i giorni esce per andare in metropolitana. Ecco, mi pare difficile metterla sotto questo guarda punto. Posso dire per esperienza personale, le metropolitane a Roma sono molto poco frequentate. Quella di Ottaviano questa mattina era deserta alle 9, ero io soltanto e parecchie guardie. In effetti questo segnale è passato, la metropolitana di Ottaviano questa mattina era deserta, e questo è un dato di fatto. Prego. Non so, io vedo quella di Milano o anche altri mezzi di trasporto, li vedo pieni più o meno come sono stati pieni gli altri mesi, però per carità posso avere anche delle sensazioni sbagliate. No, lei sì, però lei capisce in questo momento il punctum di tutta la vicenda, il fatto che si era detto che l'8 dicembre sarebbe stata una giornata buona per dare un segnale terroristico nei confronti di Roma. che vedere una città blindata crea l'effetto che più soldati si vedono in giro e più la gente se ne sta a casa, perché la blindatura dà l'idea che è meglio starsene lontani. È purtroppo un serpente che si mangia la coda. È difficile militarizzare una città e poi pensare che la gente tranquillamente vada a spasso per la città, però sono problemi abbastanza complessi da affrontare in maniera così semplice. Comunque è chiaro quello che ha detto lei. Rossana, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire una cosa, io sono credente, non pratico, però sono credente. Ora io mi chiedo, ma è possibile che ci sia gente che nel 2015 pensa che attraversare una porta porti l'indulgenza dei peccati? Cioè io lo trovo veramente fuori del mondo. Cioè, però vede, sì, però se le voglio spiegare la fede in termini razionali, tutto è assurdo. È assurdo che ieri sia stata proclamata la donna delle donne, una donna che ha partorito vergine. Cioè, tutto è assurdo, ma la fede è qualcosa che non chiede. Però non nuoce, spiegazione, credere in queste cose, razionali. Tipo la beata vergine, non nuoce a nessuno. Io invece ritengo. Ma nemmeno passare per una porta nuoce a nessuno. E invece sì, secondo me sì, perché credere di poter peccare e di attraversare una porta e avere l'indulgenza, credo che sia un danno per la società. Ma non è esattamente così, non è che uno pecca poi c'è tanto passo per la porta, se è così prende in giro se stesso. E chi pensa di avere la coscienza appesantita da colpe passa per lì con atti di fede, non lo so come funzioni, io non passo per le porte. Comunque io sto leggendo il libro. Io non passo per le porte, è brutto. Lo so. No, ma cioè, perché a Roma ha un significato molto brutto non passare per le porte. Se c'è un uomo quando ha le corna non passa per le porte. È una cosa figurata, quindi un'immagine figurata. No, io credo che veramente sia, mi dispiace doverlo dire, ma io credo che uno dei grossi problemi della società italiana, avendo viaggiato anche all'estero, sia proprio la presenza della Chiesa, perché nei paesi anglosassoni non c'è la corruzione e la delinquenza che c'è in Italia. Guardi, non facciamo le chiacchiere da bar. In Italia c'è la corruzione perché c'è la Chiesa, non si può radicalizzare tutto così. È qualcosa. Soprattutto vivere nella città di Roma con questa contiguità oltre Tevere è qualcosa che in effetti crea una situazione abbastanza atipica, ma non è perché c'è la Chiesa c'è la corruzione c'è al di là, corruzione c'è dove esiste umanità, perché fa parte della nostra natura. Marco, buongiorno. Buongiorno. Ho un testimone, finalmente. Sì, allora sì, ieri ero in piazza e sono un volontario che ho fatto molte celebrazioni con vari santi padri. Ah, perfetto, quindi ha una sua esperienza di altri episodi. Sì. Parli un po' più forte, sì. La sentiamo meglio. Sì, ok. No, infatti perché sto andando adesso anche in piazza a San Pietro. Allora, ma sono quelli con la tuta colorata della Protezione Civile, quelli che si perfetto. Vedono? Li ho visti stamattina a decine, c'erano più perfetto. Loro che soldati quasi. Sì. Perfetto, allora la situazione per me è una questione che stanno dicendo i media leggermente diversa. Rifaccia al punto, perché, dal suo punto di vista. Perché praticamente ieri c'era molta fila fuori a San Pietro, quindi fuori alle strade limitrofe, quindi non è vero che la gente non si è presentata. Sicuramente il discorso di Parigi ha contribuito qualche cosa alla paura, perché infatti ci sono avute molte disdette nei vari bed and breakfast o hotel. Però ieri la gente ha fatto ore e ore di fila per poter entrare e quindi molta gente non è riuscita ad entrare, perché la situazione della gente che vuole andare in piazza per stare vicino ai vari santi padri ce l'abbiamo avuto con l'ultimo grande evento della canonizzazione dei due papi, che la gente stava fino a Via della Conciliazione. Ma quello, pensi, un evento mediatico è stato lanciato che sembrava quasi un festival, i due papi con gli elicotteri, le foto dei due papi, è stato un capolavoro dal punto di vista, e poi ancora non si parlava di attentati in maniera così insistente. Perfetto, quindi non possiamo paragonare quello che è successo ieri con l'apertura del Giubileo, con i vari attentati che ci sono stati, il fatto che la gente non si è avvicinata perché non è più credente oppure non crede più al Giubileo che ci sta. Io accetto il suo parere, anche perché è basato sull'esperienza. Lei ha visto, diciamo, le persone che sono venute con lo stesso spirito di sempre. Questo è forse la sintesi. E naturalmente a un certo punto hanno detto anche ieri di accelerare un po' i controlli, perché la fila per i controlli naturalmente diventava pesante. E la smobilitazione della piazza era strategicamente dovuta al fatto che dovesse essere tenuta sotto controllo. Marco è un operatore e stava in piazza. Roberto, buongiorno. Buongiorno, senta Nicoletti, io ho due cose fondamentali. Prima di tutto penso che sia stato sbagliato in dire il giubileo e il modo in cui l'ha indetto Papa Francesco. Lui vive in Italia e quindi avrebbe dovuto consultarsi preventivamente con lo Stato italiano se in dire il giubileo nel momento opportuno e anche nei modi. Non si può che molti osservatori hanno detto questo. Giubileo, ci siamo trovati a dover gestire l'emergenza, soprattutto i romani, da un giorno all'altro, una cosa che in realtà non era stata per niente negoziata, che il cui impatto in realtà è sulla città di Roma, tutto al di qua del Tevere. Sì, ma anche il momento è sbagliato e le modalità con le quali è stato indetto il giubileo. Secondariamente, se la gente è stata, ha dato poca affluenza, anche perché tra quello che dice la Chiesa e come si comporta la gente, si è un po' scocciata di essere presa in giro, per cui questo giubileo sarà una cosa scialba, piatta, stanca. Beh, aspettiamo, e sarà anche una bella scocciatura, insomma. Allora, guardi, per chi ci abita vicino è sicuramente una scocciatura, ma non siamo l'ombelico del mondo, il mondo è vasto. Ripeto, sono stato fra i primi a porre, ma come mia opinione personale che non ha nessun valore, molte perplessità sull'opportunità di questo giubileo, però le conclusioni si faranno alla fine. Adesso abbiamo soltanto osservato e riflettuto su quello che è stato l'incipit del giubileo, come dice lei giustamente, non è stato certo qualcosa di sfolgorante, ma come ci ha detto la Scaraffia, se la misurazione è in termini di vantaggio spirituale, non siamo noi a dover dire come ha funzionato. A domani.